Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Tanto io che la matrigna avevamo ascoltato lo sfogo di mio padre senza fiatare, ma io, pur tacendo i miei dubbi, mi sentivo alquanto sconcertato. Difatti, non solo le argomentazioni paterne non mi avevano guarito dal mio nativo infelice amore per le madri, ma, al contrario, più di una volta, ascoltando, io mi ero sorpreso involontariamente a pensare: «Maledizione! Si direbbe proprio che chi ha una fortuna non sa che farsene, mentre chi la gradirebbe non ce l'ha». In realtà, le ragioni portate dal nostro capo per dimostrare i torti delle madri erano, almeno in gran parte, proprio le medesime per le quali io, invece, mi rammaricavo da sempre di essere orfano. L'idea di una persona che amasse unicamente Arturo Gerace, a esclusione di qualsiasi altro individuo umano, e per la quale Arturo Gerace rappresentasse il sole, il centro dell'universo, era un'idea che non urtava affatto il gusto mio. Così pure l'idea che una persona piangesse e singhiozzasse per me non mi riusciva affatto disgustosa. Anzi, certe azioni già affascinanti in se stesse, come per esempio sortire impavido nella tempesta o addirittura marciare verso il campo di battaglia, mi pareva che avrebbero acquistato, a pensarci, un sapore assai più squisito se qualcuno nel frattempo si disperava per me. Quanto agli insulti accusati da mio padre, ero convinto che a me certi insulti mi sarebbero parsi non veleno, ma zucchero e miele. Inoltre, lui ragionava secondo la sua particolare esperienza, e cioè secondo la madre sua, che era una tedesca alta e grossa. Ma la mia era un'italianuccia piccola, di Massalubrense. Le massalubresi, a memoria d'uomo, sono state sempre femminelle di buone maniere, perfino troppo dolci, senza niente di amaro. Secondo me, la madre mia non si sarebbe decisa a dirmi un insulto nemmeno se ce l'avessero obbligata con un decreto legge. Rimaneva il fatto di lei che sfiorisce mentre il figlio si fa più bello. Ma questo a me pareva un vantaggio garantito senz'altro. A una femmina sfiorita, che ha perso la propria gioventù, il figlio ragazzo, anche se non è una bellezza perfetta come mio padre, dovrà sembrare l'imperatore della bellezza in terra. Appunto questa sarebbe stata la massima soddisfazione mia. Qualcuno che mi stimasse meraviglioso, insuperabile, imperiale. Per mio padre, che possedeva la perfezione, evidentemente una tal cosa non aveva molta importanza. E ciò mi faceva sempre più ammirare la sua noncurante sovranità. La matrigna trasse un sospiro e finalmente si incoraggiò a parlare, ma la sua voce suonò selvatica e remota, come il lamento di una gatta spersa nella notte. «Allora», essa mormorò, «se quei sentimenti che avete detto voi sono offesa, la gente non si dovrebbe più amare a questo mondo». Mio padre girò il capo verso di lei. «Taci tu», le rispose, «che sei appena nata e inoltre sei nata stupida. Se dici ancora un'altra parola, io t'ammazzo. Di certi sentimenti ne faccio a meno io. Li lascio ai disgraziati che sono liberi soltanto la domenica. Non mi vanno a me i romanzi d'amore di nessun genere, ma l'amore delle femmine poi è il contrario dell'amore». Qui egli ricominciò a monologare e parlando, fra la noia e l'irrequietudine, ogni momento sbadigliava, rideva, si rivoltava sul cuscino come un ragazzo che smania in un dormiveglia morboso. «L'intenzione delle femmine è di degradare la vita. È questo che ha voluto dire la leggenda degli ebrei raccontando la cacciata dal paradiso terrestre per volontà di una femmina. Se non fosse per le femmine, il nostro destino non sarebbe di nascere e di morire come le bestie. La razza delle femmine odia le cose superflue, immeritate, endemica di tutto ciò che non ha limiti. Vuole il dramma, il sacrificio, quella brutta razza. Vuole il tempo, il decadimento, la strage, la speranza. Vuole la morte. Se non fosse per le femmine, l'esistenza sarebbe una giovinezza eterna, un giardino. Tutti sarebbero belli, liberi, spensierati, e amarsi vorrebbe dire soltanto rivelarsi l'uno all'altro quanto si è belli. L'amore sarebbe una delizia disinteressata, una gloria perfetta, come guardarsi allo specchio, sarebbe una cattiveria naturale senza rimorso, come una caccia meravigliosa in un bosco reale. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo, nessuna ragione, non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana. E invece l'amore delle femmine è un servo del destino che lavora per continuare la morte e la vergogna. Espedienti, ricatti, pretesti interessati. Ecco di che cosa sono impastati i suoi sentimenti servili. Ah, a che ore saranno? Guardate l'orologio, qua al mio polso. Non ho voglia di alzare il braccio. Here I am. Here I am. Mio padre mi allungò uno sguardo di fra le palpebre semichiuse e mi chiamò pigramente. Arturo. Quindi, dopo una pausa, hai udito quello che ho detto delle donne? Che ne pensi tu, eh? Ho ragione. Decisi fra me che questa era una buona occasione per mortificare la matrigna e risposi risolutamente. Sì, senza le donne si starebbe meglio assai. Tu hai ragione. Forse, invece, egli disse nel tono di una volubilità amareggiata, io non ho né ragione né torto. Ho parlato di un'esistenza perpetua, senza limite, come se rimanere immortali fosse una fortuna e una delizia. Ma se poi questa storia di seguitare a vivere in eterno finisse per annoiarci, forse la morte è stata inventata per bilanciare la troppa noia, eh, Arturo? No, non credo. A me sembra che i morti debbano soffrire di una noia orribile, dissi rabbrividendo al pensiero odioso. Mio padre rise. Ti piace vivere, eh, Moretto? Domandò. Ma tu te ne intendi della noia? Di, ti sei annoiato mai? Ci pensai un istante. Proprio annoiato? Risposi, no, mai. Qualche volta magari mi sono seccato. Ah, e per esempio, quando? Per esempio, io mi ero seccato durante i giorni precedenti, quando mi condannavo alla reclusione in camera mia per non incontrarmi con la matrigna e lui assieme. Ma questo non avevo voglia di confessarlo e tacqui. Del resto, mio padre non si curava già più di udire la mia risposta. Distratto, aveva rigirato il capo contro il cuscino. E poco dopo, dal suo respiro fattosi più pesante, ci accorgemmo che si era addormentato. La matrigna allora si alzò e, tolta dal lettino lì accanto una coperta di lana, ne ricoprì il dormiente. Questo suo moto apparve quasi automatico, tanto era naturale, e tanto più mi ferì a causa della sua naturalezza. Infatti esso, con la sua fatale semplicità, significava: «Costui può avere anche sparlato delle femmine, ma niente può scancellare due leggi, oramai sancite, che mi danno l'una il dovere di servirlo e l'altra il diritto di proteggerlo. Queste due leggi sono che io, essendo la sua sposa, appartengo a lui, e che lui, essendo il mio sposo, è mio. Non voglio dire, si capisce, che allora la mia intelligenza seppe tradurre quel gesto della sposa nei suoi due significati con la medesima chiarezza logica di adesso che lo ricordo. Anzi, io non mi fermai nemmeno a domandarmi per quali e quanti perché quel gesto mi offendeva. Ma la sensazione che ne provai fu precisa e parlante, come se mi ferisse il cuore un'arma misteriosa dalla punta doppia. La trafittura fu così rapida che subito me ne dimenticai. Dovette però essere molto fiera, se oggi me ne ricordo a tanta distanza. In verità, io, a mia insaputa, venivo sottoposto a prove più amare di quelle di Otello, giacché quel negro sventurato, almeno nella sua tragedia, aveva un campo segnato dove combattere, di qua l'amata e di là il nemico. Mentre che il campo di Arturo Gerace era un dilemma indecifrabile, senza sollievo di speranza né di vendetta. Subito dopo, bisbigliando che doveva scendere da basso ad accendere il fuoco per la cena, ella uscì. Fino all'ora di cena io non mi mossi dalla camera di mio padre. Sentivo di amarlo più ancora del solito, ed ero preso insieme da un'angoscia mai provata, che se cercassi di tradurla in parole, potrei forse tradurre così: turbamento di non sapere il mio destino. L'ignoranza del destino, che ci accompagna tutti in ogni momento, per me era sempre un motivo di allegrezza avventurosa. Ma oggi mi opprimeva l'anima. Guardavo mio padre dormire e provavo un affetto quasi selvaggio. Ma l'eterna impossibilità di avere da lui risposta e consolazione mi dava un sentimento di debolezza infantile. Mi venne una nostalgia che egli mi baciasse, mi accarezzasse, come fanno altri padri con i figli. Era la prima volta che avvertivo questo desiderio. Fra lui e me non c'erano mai state simili espansioni, degne piuttosto delle femmine, evidentemente poco virili. L'unico bacio fra noi due era stato quello che una notte, in sogno, io avevo dato di nascosto a un suo pacchetto di sigarette. Ma quanto a lui, nemmeno in sogno mi era mai balenata l'idea che la sua bocca potesse dare dei baci. Si pensano simili cose di un Dio? Thank you. giorno dopo mio padre partì. La matrigna ed io lo accompagnammo al piroscafo. Ritornando indietro dal molo, io mi separai da lei e, presa un'altra strada, me ne andai solo in giro per la campagna. In passato, nessuna delle altre partenze di mio padre, per quanto crudeli, mi aveva ancora mai turbato come questa. Sebbene non vi fosse nessun motivo di dubitare del suo ritorno, io provavo un rimpianto disperato e ultimo, come se il nostro saluto di poco prima sul molo fosse stato un addio. Anche questo saluto, come tutti gli altri nostri precedenti, era stato senza baci. Il desiderio bambinesco che mi aveva sorpreso il giorno avanti non era stato esaudito. Ma del resto un tale desiderio oggi mi pareva futile. Mi invadeva una solitudine arida, e dal fondo di questa solitudine sentivo risalire l'angoscia innaturale da me conosciuta il giorno avanti per la prima volta. Quella, cioè, di non sapere il destino. Il tempo era tornato bello come una primavera e io non rincasai fino al buio. Entrando per la porta finestra, trovai in cucina la matrigna che, secondo la sua abitudine, cantava accendendo il fuoco. E questa sua spensieratezza mi parve sconveniente. Fino a poche ore prima, io m'ero sdegnato contro di lei perché stava sempre appresso a mio padre, come una cagna rubandolo a me. E adesso invece le rivolsi in cuor mio rampogne amare perché non si rattristava d'essere separata dallo sposo. Mi venne un cupo istinto di punirla. E mentre essa apparecchiava la tavola, le rammentai con cattiveria: adesso che mio padre è partito dovrà imparare a dormire sola la notte. Evidentemente essa non aveva ancora fermato il suo pensiero su questa prova inevitabile che l'aspettava. La vidi infatti mutar viso e spaurirsi, come se soltanto le mie parole gliela richiamassero alla memoria. Questo era uno dei tanti segni dell'infanzia che tuttora perdurava in lei, che la sua immaginazione, sempre abbastanza pronta per le favole e simili cose puerili, si mostrava talora piuttosto tarda invece per tutto quanto poteva annunciarle pena o avversità. Si sarebbe detto che ella si fidava ingenuamente dei giorni e che attribuiva ad essi una specie di benevolenza coscienziosa, come se anche il tempo avesse un cuore cristiano. Durante la cena, che durò pochi minuti, ella non fece più udire la sua voce, tanto era impensierita. Io mangiai rapidamente, senza rivolgerle parola, e subito dopo me ne andai a letto. Ero stanco di quella giornata inquieta e avevo un gran sonno. Come facevo spesso durante la stagione fredda, non persi neppure tempo a spogliarmi, togliendomi soltanto le scarpe, e appena fui coricato, di colpo m'addormentai. Ma non era forse passata nemmeno un'ora quando fui riscosso da piccoli colpi febbrili all'uscio della mia camera e dalla voce della matrigna, sommessa e disperata, che dietro l'uscio chiamava: «Artù! Artù!» Non saprei dire, in quel mio primo sonno di un'ora, che sogni avessi fatto. Dovevo però aver viaggiato a chissà quali distanze, e mi ero perfettamente dimenticato di lei. Senza capir nulla, insonnolito, mi levai a sedere accendendo la luce vicino al letto. E in quello stesso momento, aperto l'uscio, essa comparve sulla soglia tutta sconvolta. «Artù, io tengo paura», disse con un filo di voce. Thank you. matrigna aveva tutta l'aria di essere fuggita di corsa dal suo letto, cacciata dallo spavento così come si trovava, in sottabito e senza scarpe. Ai piedi aveva soltanto le sue solite calzine di lana tutte bucate, che soleva mettersi anche per dormire, e l'acconciatura notturna dei suoi capelli, tutti legati in un solo ciuffo in cima al capo, mi ricordava la coroncina di penne ricciute di cui vanno ornati certi uccelli tropicali. Come tornai alla realtà? La fissai con occhi sdegnosi e forastici. Non era la prima volta che la vedevo così in sottabito. Mi era già venuto i giorni precedenti di vederla di sfuggita così che attraversava il corridoio o s'aggirava in camera di mio padre. Ed essa non si era affatto nascosta alla mia presenza e aveva serbato delle maniere tranquille e naturali, giacché non le pareva vergogna di mostrarsi in sottabito a un ragazzino di 14 anni. Irritava questo suo contegno. «Non era nell'intenzione mia risvegliarti, Artù», essa sedette a spiegarmi con le labbra smorte. «Io mi sforzavo di dormire. Ho recitato pure le preghiere di Santa Rita perché mi aiutasse ad addormentarmi. Ma non ce la faccio. Tengo troppa paura a dormire sola, senza nessun altro cristiano nella stanza». E adocchiando sospettosa verso il corridoio spento, si inoltrò un poco nell'alone della mia lampada, quasi a cercare protezione contro il buio. Ma io, accigliato e sprezzante, non la invitai a sedersi né ad entrare, e rimase in piedi, appoggiata allo stipite dell'uscio come una serva. «Tieni più di 16 anni», le dissi con una smorfia di compatimento supremo, «e non sei neppure capace di dormire sola la notte. E pretendi pure di fare la donna anziana, come se gli altri fossero dei ragazzini vicino a te. Mi faresti ridere. Una persona quando ha una certa età con certe paure fa proprio ridere. Guarda gli altri se si spaventano a dormire per conto loro». «Ma le altre donne», si scusò con una voce sperduta e umile, «da maritate dormono con lo sposo». «Da maritate? Ma prima di maritarsi? E quando lo sposo parte in viaggio? Con chi dormono allora? Con nessuno?» «E no, con nessuno. Dormono con la madre, con la sorella, con i fratelli, col padre, con la famiglia loro dormono. Ogni cristiano a questo mondo dorme con la famiglia sua». Ed essa mi supplicò di lasciarla dormire nella mia camera, sul canapè, almeno per questa sera soltanto. Da domani in poi avrebbe imparato a dormire sola, ma stasera di là si era sentita quasi tramortire, perché era la prima volta in vita sua che si trovava in una stanza di notte senza nessun parente vicino, e così in una sola volta non poteva abituarcisi. Col tempo magari si sarebbe abituata. A malincuore dovetti adattarmi ad ospitarla per questa notte. Essa andò per un momento nell'altra stanza a prendervi le sue coperte e ne tornò correndo a precipizio e trascinando le coperte per terra, pallida come se fuggisse da un incendio. Spensi la lampada, ma non ritrovai sonno tanto presto. Era la curiosità a tenermi sveglio. Mi domandavo se il sonno delle femmine è uguale a quello dei maschi. Se, per esempio, anche le donne nel dormire respirano la stessa maniera degli uomini, russando come loro. Non avevo mai assistito al sonno di una donna, mentre che avevo veduto parecchi uomini dormire e tutti russavano, seppure in modo diverso. Passarono alcuni minuti e ancora dal canapè non si udiva nulla, nemmeno il più lieve russare. Forse ella non si era ancora addormentata. Chiamai con voce sommessa. «Ehi, tu! Dormi?» Nessuna risposta. Dunque, essa dormiva. Di lì a un momento anch'io mi addormentai ed ebbi un sogno. Mi pareva di nuotare in una grotta profonda, ombrosa. Mi tuffavo per impadronirmi di un bel alberello di corallo che avevo scorto sul fondo, e allo strappo con orrore vedevo l'acqua tingersi tutta di sangue. Mi riscossi e nel momento stesso che riaprivo gli occhi istintivamente accesi la luce, con l'idea confusa di dover accorrere in qualche luogo per impedire non so quale delitto, tragedia. Ma nella realtà invece tutto era tranquillo, e dinanzi a me sul divano La matrigna era immersa in un sonno profondo, tanto da non ridestarsi alla luce improvvisa della lampada che le batté in pieno sul volto. Il primo istante la sua presenza in camera mia mi parve un enigma, ma poi subito mi si schiarì la memoria e la osservai incuriosito. Dormiva un po' rannicchiata per adattarsi alla misura del divano, tutta inviluppata nelle coperte fino al mento. Il suo viso aveva un'espressione di assenza e di candore. I suoi silenziosi respiri le lasciavano sulle labbra una freschezza umida e tenera, e anche il colore che le tingeva le guance pareva nascere da questa ingenuità del suo fiato. Si sarebbe detto che essa non sognava nulla. Nel sonno lasciava pure quei pensieri semplici che aveva da sveglia. Diventava ancora più semplice. E non viveva più con la mente, ma solo con i respiri, come i fiori. Io riconobbi sul suo volto quell'aria favolosa che essa aveva il giorno del suo arrivo e che il giorno dopo era già guastata. Le strisce delicate delle sue orbite, che un giorno solo era bastato a sciupare, stavano nascoste sotto i lunghi cigli pietosi. Il ciuffo dei suoi riccioli sul guanciale sembrava proprio la corolla spampanata di un grande fiore nero. Essa mi apparve più graziosa che da sveglia. Forse la famosa bellezza delle donne, di cui parlavano i romanzi e le poesie, si svelava appunto nel sonno, durante la notte. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.